Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. È la sera di giovedì 14 agosto 1919. Siamo a Londra, alla Royal Opera House di Covent Garden. Il giornalista americano Lowell Thomas, celebre corrispondente di guerra, proietta immagini del fronte arabo del primo conflitto mondiale da poco concluso. La serata si chiama Travelogues ed è concepita come una sorta di conferenza a spettacolo. Immagini e filmati vengono commentati dallo stesso Thomas davanti a un folto pubblico accorso per sognare e stupirsi davanti a paesaggi e situazioni esotiche e lontane, davanti al brivido della guerra e al coraggio degli eroi. Il primo eroe preso in considerazione, Sir Edmund Henry Ayman Allenby, uno degli eroi della conquista britannica di Palestina e Siria. La serata riscuote un successo straordinario. Il motivo risiede anche e soprattutto nel fatto che Thomas ha deciso di incentrarla su un secondo personaggio, un piccolo colonnello inglese che aveva giocato un ruolo fondamentale nella rivolta araba contro l'impero turco, rivolta appoggiata militarmente e politicamente dagli inglesi. Sir Lowell Thomas racconta al pubblico di quel suo incontro, lasciando gli spettatori a bocca aperta. Vidi per la prima volta il colonnello Lawrence a Gerusalemme, in uno stretto vicolo. Era in compagnia di alcuni arabi, ma non aveva l'aria dell'arabo. Più tardi mi recai dal governatore britannico a Gerusalemme, Sir Ronald Storrs, che io chiamavo Ponzio Pilato. Raccontai a Storrs di quell'incontro e gli domandai chi fosse quello strano arabo biondo. Storrs allora aprì la porta che dava sulla stanza vicino e lui era là. E Storrs mi disse: «Le presento il re senza corona degli arabi, Lawrence d'Arabia». Lawrence d'Arabia, un mito, una figura leggendaria, i cui contorni iniziano a definirsi proprio quella sera. In sei mesi, più di 1 milione di persone, tra cui l'intera famiglia reale, seguono lo spettacolo di Lowell Thomas per conoscere le gesta di Lawrence. Una figura modernissima, un eroe mediatico in anticipo sui tempi, in grado di monopolizzare i mezzi di comunicazione, con grandissima lungimiranza. Lo storico Soleiman Moussa ne parla così. La sua vita fu romanzesca, la sua storia romantica. Da giovane venne qui nei paesi arabi a studiare i castelli dei crociati. Quindi partecipò alla rivolta araba e compì di persona molte azioni militari. Lawrence raggiunse posizioni molto importanti nel governo inglese, ma poi abbandonò tutto per arruolarsi come soldato semplice. Sia per gli arabi che per gli inglesi, il suo ruolo fu di straordinaria importanza. La sua vita appare ancora più straordinaria per gli europei, perché appare legata al mondo incantato delle mille e una notti. Il vero nome di Lawrence d'Arabia è Thomas Edward Chapman. È nato nella località di Tremadog, nel nord-ovest del Galles, il 16 agosto del 1888. È il secondo di 5 figli illegittimi, nato da una relazione che il padre, Thomas Chapman, aveva con la sua governante Sarah Madden. Lowell Thomas lo descrive così. Era di esile costituzione, magrissimo, non molto alto, carnagione chiarissima, occhi azzurri e biondo di capelli. Aveva un'aria affascinante, fragile e penetrante al tempo stesso. Nel 1899 il padre lascia sua moglie e si trasferisce con i figli e l'amante Sara ad Oxford con il falso cognome di Lawrence. Il giovane Thomas si iscrive nello stesso anno alla High School. Nel 1907 si iscrive al Jesus College di Oxford, alla facoltà di storia. Si appassiona al Medioevo, dimostra una particolare predilezione per i castelli. Inizia a viaggiare. Trascorre un lungo periodo in Francia, da solo, visitando antichi manieri, disegnandoli, studiando la loro storia. L'attitudine a viaggiare da solo evidenzia un lato peculiare del carattere di Thomas. La componente meditativa, portata naturalmente alla contemplazione, all'introspezione, elementi che saranno una parte fondamentale della maturità del futuro Lawrence d'Arabia. Era un grandissimo viaggiatore, sin da giovane. Dopo la laurea si specializzò in architettura medievale e intraprese lunghi viaggi in Medio Oriente e in Asia. Aveva anche una predisposizione per le lingue, parlava correntemente oltre all'inglese, il francese, il tedesco, l'arabo, il latino e il greco. Nel 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale. Per gli inglesi un fronte particolarmente delicato è quello arabo. L'impero ottomano, dopo molte sollecitazioni da parte degli imperi centrali, si unisce a loro il 29 ottobre 1914, creando una minaccia per i territori russi del Caucaso e per le comunicazioni britanniche con l'India e l'Oriente attraverso il canale di Suez. Cause principali dell'ingresso in guerra sono sia la germanofilia del ministro ottomano della guerra, Enver Pasha, che il 1 agosto 1914 aveva firmato con la Germania un trattato segreto di natura militare e alimentare, sia la mancata consegna da parte del governo britannico di due nuovi incrociatori leggeri. Si aprono quindi nuovi fronti che vedono contrapposti alleati e impero ottomano nel Nord Africa. Zone di capitale importanza diventano la Mesopotamia e l'Egitto, e in particolare il deserto del Negev, oggi parte dello Stato di Israele, incastonato tra l'Egitto, la Giordania e il Mar Rosso. Lawrence viene arruolato come esperto archeologo nella sezione cartografica dell'esercito britannico. Il suo compito è quello di mappare il deserto per individuare siti particolarmente strategici per l'esercito, come oasi e fonti d'acqua. In quella prima missione per i militari britannici, Lawrence rimane folgorato per la prima volta dalla cultura araba, come ricorda lo storico e docente universitario Franco Cardini. Lawrence è un passionale, parte da un grande innamoramento da buon inglese, anche se lui era un inglese particolare con molto sangue che veniva da altrove. Parte da un grande innamoramento per gli inglesi che vanno altrove, per Riccardo Cordileone, per i conquistatori inglesi. È un innamorato dell'impero inglese e dell'avventura. Si incontra con un mondo che lo prende, che lo affascina, se ne lascia conquistare. Lawrence in fondo ha il difetto dei grandi seduttori, in realtà è continuamente sedotto. Così, quando il conflitto entra nel vivo, l'ufficio del Cairo dei servizi segreti inglesi mette a punto una strategia di guerra che potrebbe risultare particolarmente efficace. L'impero ottomano non ha mai rispettato fino in fondo i diritti delle nazioni arabe sotto la sua influenza, che ora spingono per l'indipendenza. Gli inglesi capiscono che lavorare appoggiando i focolai di rivolta arabi contro i turchi potrebbe essere un'ottima mossa per indebolire fortemente uno dei più fedeli alleati degli imperi centrali. L'uomo giusto per tessere questo lavoro diplomatico viene ritenuto essere proprio Thomas Edward Lawrence. Nel conflitto con la Turchia, secondo Lawrence, si tratta non di impostare una guerra di tipo coloniale, ma di gettare le basi di una vera e propria campagna di liberazione. Organizzare la rivolta araba, strutturarla strategicamente e condurla in porto con i turchi ottomani. In cambio, per le popolazioni arabe, potrebbe esserci l'indipendenza. La missione di Lawrence appare ardua, ma non impossibile per un profondo conoscitore del mondo arabo come lui. Così, il primo passo è quello di incontrare lo sceriffo della Mecca, Ibn Ali Hussein, colui che qualche tempo prima ha proclamato l'inizio della rivolta. Lo sceriffo, però, ha da poco lasciato la guida della rivolta nelle mani di uno dei suoi figli. È lui che nel 1916, nel villaggio di Amra, vicino alla città di Jeddah, Lawrence va a incontrare. Un incontro straordinario che lo stesso Lawrence racconterà nel suo grande libro di memorie, I sette pilastri della saggezza. Amra si apriva alla nostra sinistra. Era un villaggio di forse 100 case. Percorremmo un sentiero fiancheggiato da muri e da alberi, che passava sulla cima di un terrapieno, e facemmo inginocchiare i cammelli davanti alla porta del cortile di una casa lunga e bassa. Taflas disse qualcosa a un servo, tenendo una spada dall'impugnatura d'argento. Costui mi guidò in un cortile interno, sul cui lato più lontano, incorniciata dagli stipiti di un nero portone, stava una bianca figura che mi aspettava ansiosamente. Capii al primo sguardo che questi era l'uomo che ero venuto a cercare in Arabia, il capo che avrebbe condotto la ribellione al pieno successo. Era molto alto e sottile, simile a una colonna. Nella sua veste di seta bianca e nel suo cupo copricapo legato con una lucente striscia scarlatta e dorata. Le sue palpebre erano abbassate, la barba nera e la faccia pallida erano come una maschera che contrastava con la scattante velocità del corpo. Teneva le mani incrociate sulla daga. Lo salutai. Egli mi precedette nella stanza e sedette su un tappeto vicino alla porta. Appena i miei occhi furono abituati all'oscurità, videro molte silenziose figure che guardavano costantemente me o lui. Egli continuò a fissare le sue mani che mollemente stringevano la daga e infine domandò dolcemente come mi era sembrato il viaggio. Parlai del caldo ed egli mi chiese quanto tempo avevo impiegato dalla Beg, commentando che avevo marciato in fretta, data la stagione. Questa figura straordinaria è l'emiro Faisal bin Hussein, il nostro secondo personaggio di oggi. L'emiro Faisal è nato a Taif, oggi in Arabia Saudita, nel 1883. Terzo figlio di Hussein bin Ali, sceriffo della Mecca e poi califfo di tutti i musulmani, è cresciuto a Istanbul, dove ha potuto apprendere dal padre gli elementi portanti della leadership. Uomo colto, abile conoscitore e parlatore di più lingue, viene eletto nel 1913 nel Parlamento ottomano come rappresentante della città di Jeddah. Poi però matura ben presto in lui l'esigenza di una lotta che possa portare le popolazioni arabe all'indipendenza. L'incontro con Lawrence d'Arabia lo aiuterà nel suo progetto e gli permetterà di diventare una delle figure più importanti e affascinanti della politica medio orientale. Quell'incontro storico ha qualcosa di fatale. L'emiro capisce subito che di quell'inglese bizzarro può fidarsi ciecamente. Lawrence comprende una cosa ben più lacerante. Il suo desiderio di schierarsi con gli arabi va ben oltre la contingenza e l'opportunità di una guerra da vincere. Desidera ardentemente che la loro libertà diventi un obiettivo tangibile, non una promessa fasulla del governo britannico. Un dissidio su cui si esprime Franco Cardini. Lawrence avrebbe dovuto fare la spia. Parte con l'idea, è un buon patriota, è anche una persona che a modo suo è un po' tutto sommato un calcolatore, uno che spera di fare carriera, non sa bene in che senso, quella accademica, quella politica, quella diplomatica. E incontra questa avventura nella sua vita. La donna della sua vita, la donna della sua vita è l'Arabia, esatto. Il mondo arabo, eccetera. Se ne innamora perdutamente e questo per una spia è un male. Così il piano di Lawrence, che egli espone con lucidità a Faisal, insiste sul ruolo decisivo delle forze arabe. Dunque niente forze inglesi e soprattutto niente forze francesi. E poi azioni di guerriglia rapide e leggere, sfruttando la dimestichezza che le popolazioni arabe hanno con il deserto. Infine, convincere anche le bande di predoni e di ribelli a combattere per la rivolta. Lawrence ha raccontato spesso il suo modo di interagire con Faisal sulle decisioni strategiche. Pare che l'emiro fosse molto permaloso. Così i due discutevano prima privatamente e giungevano poi a una linea comune. In questo modo Faisal poteva esternare successivamente durante una riunione generale la decisione presa, senza rischiare di essere contraddetto. Per questo motivo i due erano sempre insieme e tutte le decisioni venivano condivise. Nei momenti cruciali, in cui venivano reclutate nuove tribù, Lawrence invece scompariva volontariamente, in quanto temeva che la visione di un occidentale potesse irritare i capi dei beduini. Lawrence e Faisal, in ogni caso, trattavano continuamente e spesso in maniera estenuante con i capi tribù, tenendo ben presente quali fossero i limiti nelle richieste oltre i quali non spingersi. Leggendo le memorie di Lawrence, ci si imbatte in un elenco sterminato di nomi di capi tribù, segno dell'incessante attività diplomatica dei due, che spesso avevano a che fare con tribù divise in sette e clan, con cui le trattative risultavano particolarmente delicate e sbloccabili talvolta solo tramite consistenti offerte, anche in denaro. La chiave del conflitto contro gli ottomani, comunque, viene universalmente considerata la città di Aqaba. Quasi inespugnabile, è il maggior porto dell'impero ottomano sul Mar Rosso. Oggi si trova in Giordania e costituisce l'unica città portuale di questo stato. All'epoca la città veniva considerata esclusivamente attaccabile via mare, in quanto protetta alle spalle dall'impervio deserto del Nefud, considerato da molti invalicabile. La sfida di Lawrence è proprio questa: prendere i turchi alle spalle, riuscendo nell'impossibile missione di oltrepassare il deserto. Sembra una follia, ma Faisal ci crede e decide di scommettere su Lawrence d'Arabia. Prende le mosse una delle battaglie più epiche del primo conflitto mondiale. Oggi a Destini Incrociati vi stiamo raccontando la storia leggendaria di Lawrence d'Arabia, figura chiave dell'intelligence britannica, impegnato a guidare la rivolta araba contro l'impero ottomano, nemico degli inglesi. Fondamentale per Lawrence l'incontro e l'amicizia con l'emiro Faisal, figlio del califfo di Medina, l'uomo che aveva chiamato gli arabi alla ribellione contro gli ottomani. Così insieme un arabo e un cristiano tentano di portare a compimento il sogno nazionalistico e indipendentista delle nazioni arabe. Passaggio decisivo per la riuscita dell'ambizioso progetto è la conquista della città di Aqaba, l'inespugnabile porto sul Mar Rosso dell'impero ottomano. i due decidono di attaccare la città alle spalle, attraverso il terribile deserto del Nefud. Il Nefud è considerato anche oggi uno dei deserti più impervi di tutto il mondo. È vasto ben 74.000 km quadrati, a dune alte fino a 100 metri e fenditure profonde centinaia di metri. Esistono due soli pozzi in grado di fornire acqua ai viaggiatori presso Al-Shakika e Al-Gubba. Ancora oggi i beduini lo percorrono stando ben attenti a non distaccarsi dalla direttrice che congiunge le due fonti d'acqua. Nel 1917 i turchi ottomani, sconfitti a più riprese dalle truppe irregolari di Lorenz e Faisal, si sono rifugiati ad Aqaba. Lì si sentono al sicuro. La città è una vera roccaforte, protetta dal deserto e con un dispiegamento di armi puntate verso il mare veramente impressionante. Il 9 maggio del 1917 Lorenz e Faisal si salutano fraternamente. L'inglese parte per il deserto con 30 guerrieri della tribù Uwaitat, guidata da Auda Ibutai, un capo beduino fiero e carismatico che Faisal aveva convinto a combattere accanto a Lorenz in un incontro memorabile che lo stesso inglese ricorderà nel suo libro autobiografico I sette pilastri della saggezza. Entrò il cerimoniere e sussurrò qualcosa all'orecchio di Faisal, che si girò verso di me e con gli occhi che gli brillavano disse: «C'è Auda!» In quel momento il lembo della tenda fu tirato indietro. Entrò una figura alta e forte, aveva un viso magnifico, appassionato e tragico, solcato da rughe e ombre. Avevo sentito parlare di Auda. Si era sposato 28 volte, 13 volte era stato ferito. Lui stesso aveva ferito 75 arabi con le sue mani in battaglia. Per non parlare dei turchi, quelli uccisi non riusciva neanche a contarli. Lorenz aveva convinto Auda Ibutai a combattere insieme a lui, facendo leva sull'orgoglio arabo, ma con l'aiuto determinante di una cassa contenente 20.000 monete d'oro, necessarie a far sembrare meno folle il piano d'attacco della città di Aqaba. Così, alla guida di questo sparuto esercito, Lorenz d'Arabia, accompagnato da Auda Ibutai, parte per il deserto, con la benedizione dell'amico Faisal. Per settimane, Lorenz e i guerrieri di Auda attraversano il deserto. Una traversata dura, sconvolgente, straordinaria. Lo stesso Lorenz la rievoca così. Per settimane vivemmo in promiscuità nel deserto nudo, sotto un cielo indifferente. Di giorno l'ardore del sole fermentava in noi ed eravamo storditi dal vento mordente. Di notte ci bagnava la rugiada e sotto gli innumerevoli silenzi delle stelle ci prendeva vergogna della nostra infimità. Eravamo un esercito devoto a se stesso, senza parate né passi d'obbligo, consacrato alla libertà, il secondo credo dell'uomo. Una meta così tirannica da divorare tutte le nostre forze, una speranza così trascendente da consumare nel suo splendore tutte le nostre ambizioni passate. Lungo il percorso si uniscono nuove truppe e nuove tribù fino a formare un esercito numeroso e ben determinato, che riesce a sbucare sulle montagne dietro Aqaba. I cannoni dell'esercito turco sono rivolti tutti verso il mare, apparentemente l'unica via di accesso. Lorenz attende un'eclissi di luna di cui conosce esattamente giorno e ora. Poi attacca con 500 guerrieri feroci a bordo dei loro cammelli. La città è colta di sorpresa, in furia la battaglia. La battaglia dura oltre 3 ore, è violentissima. Sono migliaia le vittime nell'esercito turco. Quando le difese della città sembrano indebolite, dal mare le forze inglesi arrivano in supporto. Si compie il capolavoro militare di Lorenz d'Arabia. La leggenda vuole che lo stesso Lorenz, quella notte, in preda a una sorta di delirio mistico, sia uscito solo per andare a ricomporre i corpi dei cadaveri dei nemici. Una delle tante leggende che circolano su questo straordinario personaggio. Leggende a parte, quella di Aqaba è una vittoria decisiva che spiana la strada alla rivolta araba. C'è un dettaglio però che né Lorenz né l'amico Faisal conoscono. Un dettaglio che ha a che fare con l'arroganza che il mondo occidentale ha sempre dimostrato verso i territori considerati coloniali. Gran Bretagna e Francia, tramite i loro ministri Skies e Picot, hanno programmato di attuare una cinica politica da doppio binario. Da un lato fanno generose offerte di indipendenza agli arabi per assicurarsi il loro supporto. Dall'altro sono in realtà ben intenzionate a spartirsi fra loro i domini ottomani una volta che Istanbul e i suoi alleati degli imperi centrali fossero stati sconfitti. Ignaro di tutto ciò, forte della straordinaria vittoria di Aqaba, Lorenz mette a punto la strategia per il successo finale. Ai miei occhi il centro dell'attenzione era Deraa, l'ombelico delle armate turche in Siria. Thomas Edward Lawrence individua sulla mappa la città nel sud-ovest del paese, all'incrocio ferroviario tra Gerusalemme, Haifa, Damasco e Medina. È il crocevia della guerra e il bivio dove si disperde la vita del condottiero che ha ispirato la rivolta araba contro l'impero ottomano. Tra il 15 e il 21 novembre del 1917, l'ufficiale di Sua Maestà, che indossava la tunica e il turbante, si avvicina da solo alla fortezza. È una missione di ricognizione per valutare le forze degli avversari. Viene catturato e portato da Ayn Bey, il governatore turco che lo fa bloccare da 4 uomini e cerca di violentarlo. Al suo rifiuto, come racconta nei 7 pilastri della saggezza, Ayn Bey ordina di frustarlo. Disse di portarmi fuori e darmi una lezione. Una guardia mi colpì all'inguine. Mi piegai in due, provando a urlare impotente. Arrivò un'altra sferzata. La vista si oscurò e la vita sembrava uscire dal corpo per quest'ultima indescrivibile ondata di dolore. I carcerieri riportano Lawrence dal governatore, che questa volta lo rifiuta. È troppo straziato e sanguinante per il suo letto. Abbandonato in una stalla, riesce a fuggire. L'eroe britannico, che odiava essere toccato ed evitava di stringere la mano, scrive e riscrive il racconto di quella notte, ma sul piano morale e personale non si riprende più. Nel frattempo ottiene grandissimi successi in Arabia anche il comandante inglese Edmund Henry Hyndman Allenby, che segue con il suo esercito una direttrice diversa. Nel 1919 Lawrence d'Arabia e il fedele Faisal si ritrovano a Damasco con Allenby. I turchi sono sconfitti. Al tavolo delle trattative di Parigi, Lawrence e Faisal siederanno con i grandi del mondo per capire insieme il destino delle popolazioni arabe. Versailles si apre il tavolo delle trattative delle nazioni vincitrici del primo conflitto mondiale. Lawrence d'Arabia è consigliere e interprete dell'emiro Faisal, che si presenta come re in pectore della Siria, appena liberata dal giogo dei turchi ottomani. Faisal si attende il riconoscimento internazionale e Lawrence è a suo fianco per aiutarlo. Le promesse di francesi e inglesi si rivelano un bluff. Siria e Libano diventano colonie francesi. Iraq e Cisgiordania agli inglesi, insieme al protettorato su Palestina e Arabia. Lawrence è sconfitto. Lo storico Suleiman Musa spiega le ragioni di questo fallimento. Lawrence fece il possibile, ma alla fine Francia e Inghilterra si misero d'accordo. E il petrolio fu la ragione di questo accordo. Nell'accordo originale, la regione di Mosul, dove adesso si trovano i curdi, molto ricca di petrolio, doveva andare ai francesi. Ma gli inglesi si presero questa regione e diedero ai francesi il permesso di entrare a Damasco e di controllare la Siria. Questo fu il prezzo da pagare per Mosul, la cacciata di Faisal. Lawrence sentì il peso del tradimento, perché aveva promesso agli arabi l'indipendenza. Lawrence è profondamente deluso. Dapprima si dimette dalla carica di consigliere politico degli affari arabi, giungendo a rifiutare la carica di viceré delle Indie. In seguito rifiuta anche la prestigiosa Victoria Cross per le sue brillanti azioni militari, proprio mentre Sua Maestà stava per consegnargliela, lasciando lo sbigottito sovrano Giorgio V del Regno Unito letteralmente con la scatola in mano. Non tutti gli uomini sognano allo stesso modo. Coloro che sognano di notte, nei ripostigli polverosi della loro mente, scoprono al risveglio la vanità di quelle immagini. Ma quelli che sognano di giorno sono uomini pericolosi, perché può darsi che recitano i loro sogni a occhi aperti per attuarli. Fu ciò che io feci. Io intendevo creare una nazione nuova, ristabilire un'influenza decaduta, dare a 20 milioni di semiti la base sulla quale costruire un ispirato palazzo di sogni per il loro pensiero nazionale. Tuttavia, l'amicizia che lo lega a Faisal gli impone di non arrendersi. Così tenta prima di imbastire un accordo tra Weizmann, presidente dell'Organizzazione Sionista Mondiale, e gli arabi, base di discussione per il futuro dell'area alla fine del dominio britannico, accordi che tuttavia non ebbero mai seguito. Quindi riesce a esercitare pressioni sul governo britannico affinché venga organizzata una nuova conferenza per cercare di riparare ai torti subiti dall'amico Faisal. Ci riesce, almeno parzialmente, partecipando come consulente di Winston Churchill a un nuovo meeting al Cairo nel 1921. A Faisal viene affidata da Londra nell'agosto del 1921 la monarchia irachena, sia pure sotto il determinante controllo della Gran Bretagna. Faisal I è il primo sovrano dell'area ex mesopotamica in una zona destinata a trasformarsi in una polveriera, proprio per la sconsiderata volontà di dominio degli occidentali, spesso stigmatizzata dallo stesso Lawrence. 13 maggio 1935. Sulle strade gallesi intorno a Wareham, Thomas Edward Lawrence sta guidando la sua motocicletta. Dopo il parziale successo della conferenza del Cairo, si è ritirato a vita privata. Si è messo in fuga, nessuno sa bene da cosa, forse non lo sa nemmeno lui. Ha cambiato per 3 volte nome e ha avuto un rapporto controverso con l'esercito britannico. Prima è stato il soldato carrista Thomas Smith, quindi l'aviere Edward Shaw. Infine, l'aviere meccanico John Hume Ross, nome con il quale si è arruolato nella RAF, da cui sarà espulso 2 volte e altrettanto nuovamente arruolato. Non mancano le visite all'amico Faisal in Siria, sempre in clandestinità fino alla morte di costui nel 1933. Nel 1935 il congedo definitivo dall'esercito britannico. Chissà quanti di questi pensieri si annidano nella sua testa quando quella mattina di primavera esce per un giro in moto. A velocità sempre crescente, percorre a bordo della sua Brough Superior una piccola strada di campagna che porta da Bovington Camp a Cloud Hill. Si diverte, sentendo il vento sul viso. Poi però incrocia un gruppo di ciclisti che arrivano in senso opposto. Li vede all'ultimo, a causa di un dosso. Sterza, prende una buca, vola fuori strada. Una caduta tremenda. Naturalmente, non mancano le teorie complottistiche. Effettivamente, non esistono testimonianze dirette e attendibili di ciò che è accaduto su quella strada. Fatto sta che Lawrence va in coma. Muore 6 giorni dopo, il 19 maggio. Nella cattedrale londinese di St. Paul, poco distante dalla Royal Opera House che aveva visto nascere il mito di Lawrence d'Arabia, si celebrano i funerali di Stato. Thomas Edward Lawrence è sepolto nel cimitero di Morton, sotto una modesta pietra tombale. Ma nella chiesa di St. Martin, a Wareham, c'è un sarcofago con la scultura di Lawrence sul letto di morte in abito beduino, al fianco del quale una tavoletta di marmo porta la scritta «Thomas Edward Lawrence, che dovrebbe dormire tra i re».